Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. We will follow two simple rules. Buy American and hire American. Caro Oscar, quanto piace questo Trump che dice compra americano, assumi americano, insomma, prima gli americani. Certo, io immagino che piace tantissimo ti freghi le mani, ai nostri ascoltatori, perché i nostri ascoltatori diranno sì, poi naturalmente comprano per esempio più di due terzi di automobili, sono straniere, poi voglio capire come si mette insieme, io immagino che lo chiediamo ai nostri ascoltatori, anzi diciamolo subito, ci vi telefoni, piace, no? Ci telefonate, vi piace 00024 00024, poi però ci dite se siete pronti a rinunciare a tutta la roba, in ogni genere di consumo gli italiani ovviamente preferiscono la maggioranza. Il senso di tutto questo in questa frase è l'America prima di tutto, gli americani prima degli altri. Però il mio senso è, poi la coerenza, voglio vedere come funziona. Però, insomma, chiediamo ai nostri ascoltatori se vorreste un po' gli italiani prima degli altri. Beh, ma io poi sono molto divertito perché siamo reduci da due cose questo fine settimana, vado subito ai Santi che mi hanno prima amareggiato e poi non stupito. Perché la prima ti dirò che è questa roba che venerdì il governo ha messo in campo perché bisognava zittire tutte le polemiche istituzionali al ritardo di quello che accadeva a Farindola, perché c'era lo Stato salvava anche se 48 giorni dopo, e poi la cosa invece è tracimata perché come vedi siamo indietrissimo, tant'è che Gentiloni ci annuncia poteri eccezionali dopo 7 mesi. Vabbè. La seconda è una giornata intera di esplosione su Grillo perché diceva Trump e Putin. Oggi hai visto sulla stampa cosa c'è? Sì, ci sono due interviste a Berlusconi e Prodi, soprattutto che dicono, Prodi. Battiamo Trump perché bisogna aprire a Putin prima di Trump, che non vedo molta differenza nei toni. Soprattutto Prodi ha detto l'Unione Europea giochi in contropiede sull'America, non lasci il pallino dei rapporti con la Russia a Trump, ma sia all'Unione Europea. Come mi pare che in sostanza dicono tutti e tre la stessa cosa, però dopo che la domenica era stata una bampare, Grillo con la differenza però che, con la differenza che Grillo ha smentito quello che ha detto, che pare abbia detto, mentre loro non smentiranno nulla, perché dicono che è una posizione più seria, più rigorosa. Vedi com'è la politica, ciascuno si riserva di dire magari le stesse cose di un altro, ma se le dice un altro scomuni. Comunque i santi, perché sono andato oggi, del resto dei santi abbiamo una santa merenziana, di cui però in realtà la stessa chiesa diceva insomma non ne sappiamo molto, però è molto molto famosa fin dai primi secoli in quanto lapidata al funerale di Sant'Agnese a Roma, e invece sappiamo, ed è un personaggio storico di grandissimo livello, il patrono di Toledo in Spagna, che è il Defonso di Toledo, che è una grande figura del VII secolo, quando la Spagna era dei Visigoti, ed è uno dei santi più importanti della tradizione cristiana spagnola degli albori. Oggi, anniversario, nel 1918 nasceva l'Armata Rossa, nel 1932 la più limitata Italia faceva nascere la Settimana Enigmistica. Io preferisco la Settimana Enigmistica, a dirvi la verità, all'Armata Rossa. Mi sembra giusto. Ognuno ha le armi che può. Mi piace di più, ecco, la Settimana Enigmistica, a dirvi la verità. E faccio gli auguri tra chi compie gli anni a Christian Rocca, il nostro collega di Il, e però fammi dire, non hai capito quella della dog sitter? La dog sitter, no, infatti la wedding, attenzione, c'è la nuova professione, la wedding dog sitter, cioè prendere un cane che porta le fedi nel momento clou all'altare. Ma tu ci hai visto il povero cane, cosa c'entra? Non hai capito? No, povero cane, nel senso che il cane vorrà correre nei prati invece che portare. Ma no, ma è una scelta per ridare valore al matrimonio. Cioè, portando il cane all'altare con le fedi di tutti i presenti all'altare, da una dall'altra parte, lui è l'unico fedele leale. Non so se hai capito. Questo è il punto. E quindi bisogna rafforzare il coefficiente. Cioè, come dire, è portare l'unico essere vivente fedele in quel momento in chiesa. Beh, diciamo, la statistica dice che se porti un cane alla cosa del matrimonio alzi la propensione alla fedeltà e alla lealtà. La statistica, non Gianni. Sì, no, va bene. E quindi insomma, questo è il motivo. È un augurio. Cari sposi, prendete esempio dal cane, se posso dire, non vi offendiate, nessuno che ascolta, ma il cane è fedele. No, no, no, ma certo, mi era sfuggita questa lettura. Comunque, vedi, i nostri ascoltatori dicono il senso di questo. In questa frase di Trump, poi non è che si può congelare, spesso, sai, vengono dette anche perché rimangano un po' scolpite nella storia queste frasi, no, nei momenti di insediamento. Sono frasi in cui si interpreta un paese, lui così, certo, ha vinto, perché ha detto queste due cose. Vuol dire difendere i lavoratori americani, certo, prima di tutto, le famiglie americane. Deluse da Obama. Le aziende americane, no? Il comprare americano. In una frase c'è ovviamente riassunto tutto questo. E comunque i nostri ascoltatori ci chiamino su questo tema. Oscar, però vogliamo parlare appunto della questione terremoto. E come no? Io non vorrei, oggi il Messaggero racconta di questa telefonata arrivata in prefettura con una dirigente che ha detto: ma no, ma quale albergo crollato, eccetera. Addirittura c'è un nome, è l'apertura del Messaggero. Sì, però io non vorrei che diventi questa dirigente un capro espiatorio. In fondo, quando ha risposto a questa telefonata, era già crollato l'hotel. No, ma soprattutto, quindi tutto tornava, la tragedia era già avvenuta. Quello che loro, cioè tutte le istituzioni raggiunte dalle telefonate, sostenevano che fosse. E comunque, ripeto, il tentativo per due giorni di zittire le legittime proteste, alla fine, dopo cinque giorni, finalmente i giornali scrivono che l'hotel era dalle 7 del mattino che si era fatto vivo. Questo forse è un po' più problema. Ecco, no? E poi si è rifatto vivo alle 15 con la porta certificata, quindi nessuno potrà smentirlo. Abbiamo riappreso che la carta sismica è bloccata e non ha fatto un passo avanti quella nazionale da agosto e ottobre, malgrado due grandi sismi, che la carta di valutazione dei rischi per le valanghe. La telefonata arriva alla fine. Ma la telefonata è la conferma di tutto questo. Diciamo che plasticamente appare come la telefonata la causa di tutto. In realtà, per favore, rilevare queste cose non c'entra con l'assoluto rispetto, l'affetto, il fatto di essere con il cuore insieme a loro, a quelli che hanno scavato a mani nude e ancora lo fanno dopo giorni e giorni. Non c'entra niente. Quelli sono fanno tutto il loro dovere e in più con il cuore. Lo Stato, che non riesce a organizzarsi mai, è un altro paio di mani. Certo. No, ma tra l'altro noi abbiamo chiamato per un altro motivo, però vogliamo partire da qui chiedendo a lui, che rappresenta in questo momento tutti i comuni italiani, anche in questa catena di comando, quali possono essere le responsabilità a livello comunale, a livello di prefettura, a livello ministeriale, a livello protezione civile, quando succedono tragedie del genere. Abbiamo con noi Antonio De Caro, che è sindaco di Bari, ma è presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Buongiorno, presidente, grazie. Buongiorno a voi. Le responsabilità dei comuni, perché, a che livello? I sindaci sembrano degli inascoltati impotenti, perché è allo Stato che spettano i poteri di intervento straordinario, o no? È così, De Caro? Purtroppo le responsabilità alla fine ricadono sui sindaci, che sono il terminale di quella catena di comando. Proviamo a guardare che cosa è successo all'ex sindaco di Genova, che è stata condannata per omicidio colposo in primo grado, in relazione ad una allerta meteo, e poi non si sa il sindaco cosa deve fare. Già i sindaci come me, che hanno pochi problemi sul territorio, parlo di neve di 4-5 centimetri, vivono nell'imbarazzo di chiudere le scuole, tenere aperte le scuole, se scivola qualcuno che succede. Ieri per esempio la Commissione Grandi Rischi ha comunicato che probabilmente ci sarà una nuova scossa di terremoto in una zona ampia quanto 5 regioni, quindi non è nemmeno specificato dove. La scossa sarà una scossa importante, probabilmente la commissione comunica alla protezione civile, la protezione civile scrive alle regioni, le regioni scrivono ai sindaci. Adesso ci sono i sindaci ovviamente nell'imbarazzo, non è scritto nemmeno quando orientativamente ci sarà questa scossa di terremoto. Che fanno adesso i sindaci? Chiudono le scuole, chiudono gli uffici pubblici oggi, domani, dopodomani, è complicato. Ma voi ci vorrebbe una sorta di norma che individui, nel caso in cui ci sia un allerto di questo tipo, che cosa fare. Non può essere soltanto il piano di protezione civile di un comune. In questi casi ci aiuti a capire, come nel caso di Farindola, cioè lì interviene a quel punto la prefettura e quindi in qualche modo il sindaco è, non dico destituito di potere, ma scavalcato nelle decisioni? No, purtroppo no, perché il sindaco comunque è responsabile della protezione civile. Il tema è che ci sono sovrapposizioni, cioè la protezione civile nazionale, c'è la prefettura che è l'organo di governo sul territorio, c'è il sindaco, c'è la provincia che ha competenze per esempio sulle strade, lì parlavamo anche di neve sulle strade, e c'è la regione che ha in capo una protezione civile che però nella maggior parte dei casi non ha risorse, non ha mezzi, può dichiarare lo stato di calamità naturale e sbloccare, diciamo, alcune situazioni. Io credo che mentre dal punto di vista dell'intervento la protezione civile nazionale fa un lavoro straordinario che non viene messo in discussione da parte di nessuno, tutti i sindaci che ho ascoltato, che ho incontrato in questi mesi sul posto all'interno della zona del cratere, non si sono mai lamentati dell'intervento della protezione civile. Probabilmente bisognerebbe strutturare le altre competenze della protezione civile, che sono quelle relative fondamentalmente alla prevenzione. Occorrerebbe creare un meccanismo automatico per il quale, per esempio, se è prevista neve importante in una zona del nostro paese, ci sia la possibilità di coordinare le attività delle regioni, delle province, dell'ANAS, un po' dei più snella anche come struttura. Mezzi spazzaneve in quella zona dove è probabile che ci sarà un evento meteorologico importante, magari scoprendo alcune zone dove le condizioni meteo sono positive. Sì, mi sembra che capire anche un po' più snella dovrebbe essere la struttura. Comunque noi, Presidente, l'abbiamo chiamata anche perché, insomma, a livello di ANCI, a livello, riguarda tutte le città italiane, c'è questa proposta di legge per cercare di stroncare un altro fenomeno, e si dice che è partita un po' da lei, da sindaco di Bari, il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel senso, introducendo una nuova tipologia di reato per coloro che in maniera un po' insistente chiedono soldi al parcheggio, anche se non sono autorizzati. Ce la vuole spiegare? Sì, l'Associazione Nazionale dei Comuni in questi mesi sta cercando di fare delle proposte al governo senza aspettare le risposte, ma presentando proprio delle leggi. Quella proposta sul parcheggio abusivo è inserita all'interno di una norma che prende il nome di norma sulla sicurezza urbana, c'è un articolo che prevede esplicitamente che il parcheggio abusivo venga considerato un vero e proprio reato. Oggi è sanzionato con un'ammenda dal punto di vista amministrativo. Siccome in buona parte delle città, soprattutto nelle zone più importanti, nelle zone dove ci sono eventi musicali, culturali, il parcheggiatore abusivo non è uno che sta cercando di sbarcare il lunario, purtroppo è un pezzo, diciamo, di un'attività criminale che viene esercitata sul territorio, allora crediamo noi sindaci sia giusto cercare di reagire con forza, e quindi attraverso un reato che di sarebbe? Penale. E che reato sarebbe? Okay. È una sorta di intimidazione, un'estorsione, perché chi chiede i soldi al parcheggio il più delle volte esercita, diciamo, una azione legata al fenomeno estorsivo, cioè se non mi lasci i soldi quando torni non so se ritrovi l'automobile, se trovi l'automobile sana, se la trovi raschiata, se la trovi danneggiata. È un gran classico. Ci sono clan criminali, le inchieste soprattutto nelle città del sud dimostrano che il fenomeno del parcheggio abusivo viene gestito dai clan criminali. Questo sì, però Oscar, tu sei sempre stato un po' contrario alla introduzione di nuove tipologie di reato come tentativo di stroncare in qualche modo dei fenomeni. Noi però, con il Sud Bruno Leone abbiamo dato vita a un osservatore negli anni sugli effetti, contiamo gli effetti, verifichiamo gli effetti, controlliamo gli effetti della proliferazione di fattispecie penali ad hoc, no? Per fare esempi un po' popolari, dall'omicidio stradale eccetera eccetera. Sull'omicidio stradale la serie storica è ancora corta, però per il momento i dati dell'anno scorso dimostrano che non c'è nessun effetto positivo. Quindi la moltiplicazione di fattispecie penali, e capisco bene una legittima reazione dei politici quando identificano un problema che non... però di solito quasi sempre l'efficacia è tutta da verificare, e di solito i dati successivi dicono ma è buona all'acqua, vediamo. Però noi ma ci limitiamo perché c'è a fare l'efficacia questo. Perché poi non funzionano le procure che devono, perché se stiamo perseguire nell'ambito di questi micro reati diffusi, il micro reato diffuso che è un classico termometro di illegalità, inefficienza, non viene perseguito perché le priorità sono altre nelle procure, ma la parte della stessa polizia giudiziaria e così via, e questa è la mala realtà. Quindi è chiaro che ci si può per virgolette assolvere la coscienza con le pene aggravate e identificate meglio per fattispecie, resta il fatto che poi ti scontri con un'organizzazione con reale realtà della giustizia, che è la realtà. Non c'è questo rischio, Presidente De Caro? Sì, ci può essere, però ad oggi il fenomeno, diciamo, prevede un'ammenda amministrativa. I clan normalmente utilizzano persone che non hanno proprietà, non hanno immobili, non hanno. E quindi l'ammenda è inefficace per definizione. E quindi è assolutamente inefficace. Tra l'altro il sistema, diciamo, prevede che periodicamente, ogni ora, passa un esponente del clan con il motorino e recupera i proventi illeciti, in modo che quando viene fatto un sequestro, perché magari qualcuno denuncia che ha ricevuto esplicitamente una minaccia di estorsione, e che succede? Ritrova 10 euro, 20 euro nelle tasche dei parcheggiatori, proprio perché è passato qualcuno a recuperarli. Quindi è assolutamente inefficace. Nel passato alcune procure hanno tentato, diciamo, di far diventare reato e quindi di trasformare in penale quella ammenda amministrativa, nominando con un espediente, nominando custode giudiziario lo stesso parcheggiatore abusivo, che se veniva recuperato, ritrovato nella stessa area della quale era stato nominato custode giudiziario, aveva fatto una violazione e quindi poteva, diciamo, subire l'arresto. Però poi le sentenze hanno dato torto, diciamo, al pubblico ministero. Comunque staremo a vedere questa proposta che voi lanciate come comuni e come sindaco di Bari. Intanto comunque è apprezzabile il fatto che su questo pezzo si cerchi di fare qualcosa. Sembra meno importante, però è una delle tante tessere della legalità, ma come no? Ma come no? Sulla quale si scontrano i cittadini quotidianamente. Appunto. Grazie Antonio noi De Caro. Che ci siano tante piccole cose, servono a rispettare le regole all'interno di una città. Questo sì, grazie Antonio De Caro, sindaco di Bari, presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, dunque l'ANCI. Dico, ieri nella sua bella pagina di intervista Michele Emiliano, in vista del congresso del PD, era molto felice del fatto di avere l'assessore ai trasporti, se quando diventi sindaco, tanto volli poco per scalare dalla città, che chiamai un ingegnere che aveva per bando, che è appunto De Caro, poi è restato, è presente all'ANCI, e sono molto felice. E invece Emiliano adesso punta a diventare il segretario del PD. Beh, l'intervista mi sembrava molto chiara. Mi sembrava molto chiaro che fosse così. E tra l'altro anche con una presa di distanza verso De Luca secca ma molto chiara. Insomma, dalla Puglia con furore riparte la riscossa del Partito Democratico. Allora, noi ci fermiamo un attimo, poi avremo ospite anche Giorgia Meloni. Anche sul tema l'attualità politica, Trump, sai che arriva questa battuta? Finalmente l'America agli americani. Con Trump finalmente l'America i pelle rossa. Non credo che siano gli americani a cui si riferiva Donald Trump. Non direi. La first lady è un'immigrata, tanto per cominciare. Ecco, per dire. No, illegale inizialmente. Ma sai come tanti immigrati che poi diventano i pilastri, come si vede, dei paesi. E quindi sai, mi pare difficile che l'interpretazione possa essere quella. Ma al di là di tutto, con la nostra ospite, poi Coblenza, la destra unite. Il fatto che ieri ci sono state le primarie in Francia e hanno partecipato molto meno della metà che è quelli della destra, che sono arrivati 1.7 visto 4.2 e qui in Italia a destra Salvini ancora chiede le primarie. Fa anche la data, l'8-9 aprile le primarie, oggi ha fatto la data anche la Meloni, credo che voglia le primarie. Sì, l'hanno sempre detto entrambi. Berlusconi che non ci sente molto da quell'orecchio. In che senso? Che non ci sente molto da quell'orecchio, perché ha un orecchio a Strasburgo e l'altro orecchio lo riserva solo a se stesso. Diciamo, Berlusconi funziona così. Ok, e quindi Berlusconi no. E poi lo sai che Berlusconi, quando i turni sono andati distorti sia per il Milan che per il Torino di calcio, Berlusconi diventa di cattivo umore. Perché il Torino? Cosa c'entra il Torino Berlusconi? No, perché sei andato. No, dico, sono andati male i turni per entrambi. Per me. Beh, la Prosesto ha vinto 1-0 contro il Chieri. Ecco, io non ce l'ho questa carta di riserva, tu fai benissimo ad averla. Ma non è una carta di riserva, è la prima carta, è il gioco. Lo so, hai ragione. Dai, andiamo in pubblicità tra poco. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, tra l'altro ti ricordo, caro, come mi ricorda Giuseppe, mio concittadino a Sesto San Giovanni, che stiamo per prendere il figlio di Paolo Maldini alla Prosesto. Ragazzi miei, un Maldini alla Prosesto. I cuori battono ancora più intensamente. Vabbè. Ma lo capisco. Scherzi. Le fedeltà imperiture si chiamano. Allora, no? Certo. Ci chiama Vincenzo da Pescara. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a tutti. Che ci dice? Vi dico che ha detto bene Giannino, è una questione di amore per il proprio paese e per gli italiani. E tutti dicono di essere italiani, tutti dicono di volere il bene dell'Italia, poi però quando si tratta di mettere mano al portafogli tutti quanti se ne fregano. Io invece sono uno di quelli che quando va a comprare una cosa, dal dentifricio alla macchina, alla moto, compra solo italiano, a meno che non sono costretto, perché non esiste un prodotto italiano in quella categoria. E anche per quanto riguarda i politici, che parlano sempre di bene per gli italiani, di lavoro, voi dovreste chiedere ad ogni politico che automobile possiede, perché solo in Italia i politici vanno in giro anche negli appuntamenti ufficiali con automobili di produzione straniera. Accade solo in Italia. Se un politico in America andasse in giro con una macchina estera, sarebbe immediatamente finito, cioè, per l'opinione macchine pubblica. Macchine italiane. Non solo. Non vale anche da McDonald's lei. Però le devo fare. Posso farle una domanda? Io la prendo la lettera. No? Lei talvolta sceglie italiano, ha detto sempre, tranne che quando non ci siano alternative. Sì. Anche quando pensa, o magari sua moglie, la sua compagna, in famiglia, l'esperienza di un amico, le ha mostrato che magari il prodotto italiano comparato è peggiore di quello straniero? Allora, questo è un alibi. Sì, lo scelgo anche se penso che sia peggiore. Italians first. Ma perché? Perché il problema non è scegliere per il rapporto qualità-prezzo. È una cosa che viene dopo. Il primo motivo, Trump ha detto comprate americano. Trump ha detto comprate americano, non perché i prodotti americani sono migliori, ma perché sono americani. Cioè il primo valore è che il prodotto difende le aziende italiane. Io non la penso così, nel senso, in massimo della libertà io prendo ciò che mi garba e ciò che sul mercato mi soddisfa di più, però capisco la posizione netta, insomma, di Vincenzo da Pescara. Sentiamo se a Barletta Ruggero la pensa allo stesso Buongiorno, io sono a super favore di quello che vuole fare Trump in America, e magari può essere fatto in Italia. Io sono un ex imprenditore dove la mia azienda è stata chiusa per colpa del mercato cinese, dove il mercato cinese oggi, dove molti commercianti stranieri dalla Polonia o comunque dall'Europa dell'Est vanno a comprare a Prato l'abbigliamento, vanno a comprare a Prato il Made in Italy, e da chi? E dai cinesi. Quindi sono stati letteralmente condannati e mandati a fare in culo, scusate il termine, tutti quegli italiani che negli anni 70-80 hanno fatto grande l'Italia. E quindi oggi non gli frega più a nessuno di questi imprenditori che stanno chiudendo per colpa degli stranieri. Quindi lei vorrebbe anche il protezionismo trumpiano, voglio dire. Sicuramente, perché oggi il Made in Italy nell'abbigliamento è andato a farsi forte, non serve più niente. Sono tutti cinesi che producono anche per le grandi aziende, per i grandi marchi. No, ma Ruggero, lei pone un problema, caro Oscar, qui insomma, bisogna capire se c'è un'onda. Gli avversari e le vittime, diciamo così, della globalizzazione, che non capiscono che il mondo ha bisogno di efficienza comparata, la pensano così. Ma io ti dirò, Alessandro, il giorno in cui vincerà, e magari vince anche in Italia, io non escludo per niente, usciamo dall'euro, come poi dicono tutti, ma sì, torniamo alla lira, viva l'Italia, mettiamo i muri, i dazi, tutto, ma quel come finiscono in galera, ma davvero? I seguaci dei due teorici più noti, un accademico italiano che si chiama Pescara e un leader politico con esperienze di mercato, che per questa lì, dicono che la gente come me pagherà con un tribunale di Norimberga addirittura. No, pensa, dai, quello non lo ci dico, sarà, lo scrivono tutti sarà, i giorni, c'è uno sarà. Che è stato minacciato di avere un cappottino di abete, che sai cosa vuol dire, no? Adesso, quindi io dico, magari, ecco, ragioniamone, poi se vincete voi, bene, perfetto, vedremo le conseguenze. Magari risparmiate queste allusioni perverse, oscure, cupe, mentalmente deviate alla storia. In ogni caso, insomma, comprate americano e assumete americano. Non so se questo slogan possa piacere a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Buongiorno Meloni e grazie per essere qui. Grazie, buongiorno a voi, buongiorno Oscar. È un Trump che le piace, insomma, questo slogan? Beh, è uno slogan che mi piacerebbe sentire in Italia per quello che riguarda gli italiani. Mi piacerebbe che si riuscisse a difendere di più quello che noi abbiamo costruito con il nostro lavoro in tanti decenni, in tanti secoli, se vogliamo. Voglio dire, io non trovo così scandaloso il ragionamento che Trump ha fatto per dire con la Ford. perché Trump dice una cosa abbastanza semplice, dice: cara Ford, tu sei un'azienda americana, se chiudi i tuoi stabilimenti in America per andare a produrre le macchine in Messico perché la manodopera in Messico ti costa di meno, poi non puoi pensare di rivendere quelle macchine nel mercato americano come se nulla fosse, perché se io consento che questo accada senza cercare di mettere un freno a questo fenomeno, a un certo punto dovrò anche io adeguarmi a pagare i miei operai quanto il pagamento Messico. E oggettivamente questo è il tema della globalizzazione, sì. Perché la globalizzazione era una cosa neutra e noi siamo riusciti a prendere il peggio, non abbiamo per paradosso globalizzato i diritti, anzi abbiamo fatto l'esatto contrario, abbiamo globalizzato o stiamo deglobalizzando le degenerazioni. È un tema o non è un tema? Ripeto, è proprio di difesa, perché non è che il costo del lavoro da noi è più alto perché ci sono dei diritti, mica per altro. È anche un tema, l'ha sentito per esempio a Davos, che il presidente cinese invoca, esatto, la globalizzazione, credo, mentre Trump invoca il protezionismo. Credo, perché la globalizzazione funziona oggi per quelli che non hanno regole, mentre diventa una palla al piede, cioè la regola diventa una palla al piede per chi ce l'ha nella globalizzazione, per cui per paradosso chi è avanti con la civiltà ha dei problemi, e chi invece nella civiltà è ancora molto indietro, di problemi non ne ha perché sul mercato è molto più competitivo. Ma noi il tema ce lo vogliamo porre o non ce lo vogliamo porre? Perché è ovvio che a un certo punto dovremo decidere anche noi se dobbiamo o non dobbiamo pagare i nostri operai come li pagano in Cina. Ma guardi, le faccio un esempio che è molto cogente, che è quello di Almaviva, 1660 famiglie sono appena andate a casa, un call center che lavora, solo che il call center in buona sostanza preferisce andare a fare le telefonate dall'est europeo, oltretutto di call center che lavorano spesso con commesse pubbliche, che è completamente folle, perché almeno chiedere al pubblico di lavorare call center che siano sul territorio nazionale mi sembrerebbe scontato, no? Ma è la questione, poi riguarda noi, riguarda la nostra quotidianità. Quindi a me Trump pare che sia, diciamo, una persona abbastanza lucida economicamente parlando, poi vedremo con quali risultati, ovviamente. Certo. Questo non sono in grado di prevederlo, lo chiedere a Giannino, che è più bravo di me. Senta, ma come ci si sente quando, dopo essere stati additati come in Italia, lei, la Lega, Salvini, come degli inaffidabili sostenitori di un matto Trump, e poi in un solo fine settimana vedere che Grillo e stamattina Berlusconi e Prodi la pensano praticamente allo stesso modo, dicendo che dobbiamo addirittura arrivare prima di Trump ad aprire a Putin? Un po' singolare, no? Beh, guardi, purtroppo è una vita che mi ci ritrovo, quindi ormai non ci faccio più neanche caso, insomma, per quelli che vengono dalla mia metà campo politica, vedere la gente che ti guarda dall'alto in basso, no? Che ti dice sempre che non sai di che cosa stai parlando, che non hai studiato abbastanza, che non sei preparato, quando per la verità sei l'unico, delle volte che ti sembra delle volte tu sia l'unico a dire delle cose sensate, è una cosa con la quale purtroppo ho imparato a fare i conti. Riguarda il tema di Trump, perché lo abbiamo visto, ma riguarda a 360 gradi i temi di cui trattiamo, perché lei non ha visto, Giannino, che ci siamo scoperti adesso dopo il 4 dicembre, dopo il voto referendario, dopo che gli italiani hanno detto del governo Renzi quello che pensavano, non le sembra strano che siano diventati tutti contro l'immigrazione incontrollata? Adesso abbiamo il ministro degli interni. Sembra di destra, Minniti. Non sembra di destra. Poi purtroppo le proposte che loro fanno, anche lì ci sono grandi temi che andrebbero affrontati con un certo grado di profondità, perché la questione di facciamoli lavorare, però poi nelle norme ci vogliono scrivere facciamogli fare gli stage gratuiti nelle aziende, insomma, purtroppo... A me sembra che vada perfettamente in linea con qualcosa che vado sostenendo anche lì da un pochino, facendomi rispondere che sono una populista, un imbecille, eccetera. E cioè che, secondo me, l'immigrazione incontrollata è uno strumento che viene utilizzato e che è nelle mani di alcuni anche per aiutare a rivedere i diritti dei lavoratori. Sì. Perché è normale che sia così. Se tu immetti nel mercato 500.000 persone disperate, è ovvio che ci sarà manodopera a maggior basso costo, e che quella manodopera semmai potrà servire a dire: tu italiano laureato, lo vuoi fare questo lavoro a 400 euro al mese? No, non voglio fare, peccato, lo farò fare. Senta Meloni, ma domenica, no, sabato che andate in piazza a Roma, ma non ho capito con chi e perché. Andiamo in piazza a Roma, io non abbiamo chiamato questa manifestazione l'Italia sovrana in piazza, quindi a raccontare un'idea della politica che ruota attorno a questi temi, sulla quale mi piacerebbe, diciamo, rifondare una metà campo capace di dare risposte concrete ai cittadini, quindi intorno al tema della sovranità, che vuol dire, insomma, riprendiamoci un po' le chiavi di casa nostra. È un po' trampista, è un po' trampista, ma insomma, però cioè, ma magari noi siamo arrivati prima. Sì, no, prima. È Trump che è meloniano. Cioè, sull'essere patriottici mi pare difficile dire che Trump sia in anticipo rispetto a chi lo ha. Ma chi c'è? Salvini c'è. Era una pazzia. Salvini, c'è Giovanni Toti, abbiamo in realtà invitato tutti. Berlusconi? Non figurarsi. Abbiamo invitato Forza Italia. Ah. Ieri ho sentito dire una promessa che verranno anche loro, che parteciperanno anche a una delegazione di Forza Italia, e sono contenta perché attorno a quei temi vediamo chi ci sta e chi non ci sta. Senta, Salvini stamattina in un'intervista dice primarie l'8 e 9 aprile. Lei dice di sì oppure fa come Berlusconi e Melina? Ma va, io avevo proposto il 5 marzo. Quindi prima di Salvini, abbiamo primo turno e ballottaggio già il 5 marzo. E altra domanda secca, su Repubblica c'è una pagina, l'avrà vista, pagina 10. Il jolly di Casaleggio per il dopo elezioni, quindi 5 Stelle. Un'alleanza di governo con Salvini e la Meloni. Lei che dice? Che mi pare molto difficile se vogliamo stare a quello che ci siamo detti finora, perché la verità vera è che su tutti i temi... veramente cogenti al nostro tempo, quelli seri, il governo dei flussi migratori, il rapporto con l'Europa, Movimento 5 Stelle è schierato col PD, ha sempre votato esattamente come votava la sinistra, e quindi per noi e per me è oggettivamente un pezzo di establishment, è una parte del problema, tutte le questioni centrali. Questo è un criterio di analisi nuovo. Loro rivedono, però è così, insomma, dall'immigrazione votano sempre come la sinistra, sul rapporto con l'Europa in realtà hanno fatto una serie di voli pindarici, rimandando sempre le questioni a poi chiederemo agli italiani, no, i famosi referendum che non si possono fare, ma la cosa dell'Alde, scusi, il capogruppo dell'Alde Guy Verhofstadt ha preso, e quando gli hanno chiesto scusi ma perché lei voleva portare il Movimento 5 Stelle nell'Alde, quello gli ha risposto per indebolire il fronte degli eurocritici, voglio dire, quindi insomma non si è mai capito da che parte stesse effettivamente il Movimento. Quindi insomma vi facciano vedere un po' di coerenza. Parecchio. Io però lo so che il suo patriottismo ha una mina interna, lei non ci ha pensato, ma in realtà no, ci ha pensato, perché lei ha fatto una scelta, siccome ha questa meravigliosa figlia Ginevra, le ha dato il nome della città della Svizzera, del paese più internazionale. Non è vero, perché siamo stati bravi, non le abbiamo neanche chiesto niente. Assolutamente. No, io voglio bene a Ginevra a prescindere, non faccio domande pubbliche, ma è così. È vero, quando io ho dato mia figlia a nome Ginevra, hanno detto che avevo partorito in Svizzera. Non conoscono l'ABC di alcuni miti fondanti dell'Occidente cristiano. Adesso da uno scoop sì, stava per chiamarla? Di Radio 24 la stavo per chiamare come si chiama la figlia di Oscar. Sono arrivato prima. va bene. Grazie allora, grazie Giorgia Meloni, per essere stata con noi. Ci fermiamo qui, caro Oscar, e niente, c'è appuntamento a domani. Chissà quale è una sorpresa, domani c'è la Corte Costituzionale, ti ricordi? Giusto. Sì, quella è la sorpresa, domani. Ciao.